Nessuno perciò trovi la scusa di dire io non ho molta cultura, io non ho molta salute, io nella vita ne ho combinate d'ogni colore. Oh, a proposito di questo, io ho visto come a Roma hanno utilizzato certi appezzamenti di terreno per costruirvi sopra dei palazzi stupendi, che sono grattacieli insieme, mica uno, una fila di... Oh, su quel terreno così, sembrava proprio il luogo della discarica, dei rifiuti. Se c'era un pezzo di terra brutto e antipatico alla periferia di Roma, era proprio quello. Andate a vedere che cosa hanno costruito su quel terreno così repellente. Repellente. Il terreno di Agostino di Tagaste non era forse terreno infido? Eppure sopra Dio vi ha costruito Sant'Agostino. Così quanti altri santi. Non c'è un certo Matt Talbot, facchino di Dublino, che presto, speriamo, sarà dichiarato beato? Se c'era in tutto Dublino uno scandalo, era proprio Matt Talbot, che dai 12 anni ai 28 non faceva che bere, ubriacarsi e bestemmiare come un demonio. Doverlo invocare beato Matteo Talbot. Ai suoi funerali 10.000 cittadini di Dublino, che poi non era una grandissima città allora. Venerarlo santo su un passato così vergognoso, di scandalo. Quel giovane che si converte a 28 anni, un grande santo, un grattacielo stupendo. Se c'era un posto dove la provvidenza divina, secondo i nostri calcoli, non avrebbe potuto realizzare niente, neanche un cavolo. Guarda, guarda che gigante, dal giorno della sua conversione fino alla morte. Che cosa ha costruito l'ubriacone, il bestemmiatore di Dublino? Cosa ha costruito una volta che si è consegnato alla misericordia di Dio come il povero ladrone che si consegna in extremis? Questo si è consegnato dopo 16 anni di mala vita, di scandalo. E da quel giorno in avanti, su questo terreno infido, un grattacielo stupendo. Ma non è mica soltanto Matt Talbot, a nostro conforto diciamo pure, che fra i santi e le sante, i più sono stati poveri diavoli fino ad un certo punto, poi tutto cambiato. La più parte, perché quanti anche fra i santi più grandi, quanti hanno avuto un'adolescenza piuttosto nebulosa, nebbiosa, con quella foschia per cui si è e non si è, carne o pesce, buoni o cattivi, un po' buoni e un po' cattivi. Questa strana nebbiola che ha preso tanti santi nella loro adolescenza, poi sole stupendo, dal giorno in cui si sono accompagnati ai santi e alle sante. Nessuno venga a dire, ma io ho avuto un passato. Passato è passato, acqua passata non macina più. Mettici sopra un lastrone o una pietra da tomba e non muoverla più quella pietra. Non andare più a disseppellire i morti. La tua vita passata, mettila sotto la pietra tombale. Ecco, il passato è passato, acqua passata non macina più, non torna più indietro, era acqua lurida, lascia stare, non torna più indietro, quell'acqua passata non macina più. D'ora in poi si gira pagina e si incomincia da capo.